Il punto di Stefano Folli. Il presunto complotto dell'estate 2011 ordito dal Quirinale contro Berlusconi è naturalmente la trama di un film di serie B, non una cosa seria. Furono normali contatti presi dal capo dello Stato in una situazione molto difficile per il paese. Tuttavia l'effetto finale di certe polemiche è quello di aumentare la pressione sul Presidente della Repubblica, che resta il baricentro di un sistema, il nostro, in attesa perenne delle riforme annunciate. E non è un caso che per reagire a una giornata avvelenata Napolitano ieri sera abbia visto a lungo Renzi, si badi, Renzi, non Enrico Letta, perché è da lui che bisogna partire per capire se il governo ha ancora un futuro e soprattutto se questa legislatura ce l'ha. Renzi, l'uomo che ha stabilito un ponte con Berlusconi sulla riforma elettorale, è lui la chiave di volta, anche per allentare la morsa che le opposizioni stringono intorno al colle. E in fondo la prudenza di Berlusconi negli ultimi frangenti dimostra forse che la paralisi politico-istituzionale non conviene nemmeno a lui.